Prendiamo in esame una lettera pubblicata su di un periodico evangelico, che non ha nulla di particolare e di nuovo, ma molto utile per mettere in evidenza la necessità di avere il giusto rapporto con Gesù Cristo. Ogni mattina mi risveglio accanto all'uomo che ho sposato. Lui è un musulmano ed io sono una seguace di Gesù Cristo. Quando decidemmo di sposarci, nessuno di noi era praticante delle rispettive fedi, così fu una decisione semplice. In effetti, le nostre religioni sembravano essere simili sotto molti aspetti, fu proprio mio marito a convincermi che esse erano molto simili. Anche se ero consapevole di aver sposato un musulmano, la sua decisione di rinnovare le sue attività religiose islamiche, appena un anno dopo il matrimonio, mi sorprese enormemente. Questa sua decisione scombussolò completamente l'equilibrio nel nostro matrimonio, perché fino ad allora entrambi eravamo religiosi solo nominalmente. Oltre alla rabbia per il suo cambiamento, sentivo nascere in me risentimento verso la sua religione che avvertivo mi stesse rubando il mio amorevole e premuroso marito per sostituirlo con uno che era focalizzato sui ruoli, sulle regole e sui rituali crudeli. La nostra relazione romantica prese una inesorabile svolta negativa. Ironicamente, fu proprio il suo improvviso zelo che mi riportò alle mie origini e alla mia relazione con Gesù. Sono nata in una famiglia cristiana, cresciuta frequentando la scuola domenicale, campi biblici e persino la scuola cristiana. Ero una leader e addirittura un modello di leader nella mia chiesa. Qual era il problema? In una sola parola. Punto orgoglio. Non avrei mai pensato potesse accadere a me. Sono sempre stata contraria ai matrimoni con i non credenti, ma in alcune circostanze siamo capaci di fare di tutto. Ultimamente sto meditando su come reagirò quando mio marito vorrà far pregare nostra figlia nel modo islamico. Questo probabilmente non avverrà subito, ma io già tremo davanti a questa idea. Non voglio che mia figlia pronunci che Maometto è il profeta oppure neghi la divinità di Gesù. Continuo a pregare che mio marito venga alla conoscenza del Messia prima che questo avvenga. Ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne nel mondo che stanno sperimentando situazioni simili nel loro matrimonio. Non è semplice per loro. Come ha terminato giustamente l'autrice di questa testimonianza, ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne nel mondo che stanno sperimentando situazioni simili, e proprio per questo è più che opportuno esaminare con attenzione ciò che ha scritto. La mia intenzione non è quella di fare un discorso morale sul matrimonio, sulla necessità di sposare qualcuno che professa la stessa fede, anche perché in tutta la Bibbia è specificato tanto chiaramente il divieto di sposare un incredulo che è proprio inutile fare ulteriori ragionamenti. Occorre solo ubbidire. A toccarmi profondamente in questa testimonianza sono state alcune confessioni, che sono alla base di tutto il dramma verificatosi. Questa sposa ha iniziato con il dire: nessuno di noi era praticante delle rispettive fedi. Così fu una decisione semplice. Questo comportamento è molto comune negli ambienti religiosi. Si ha la forma, ma non se ne conosce a sostanza. Per questo motivo, il cristianesimo per molti è solo una religione, non una risposta d'amore all'amore di Cristo. E la consuetudine a vivere il cristianesimo come una delle tante religioni ha portato la nostra protagonista a dire: le nostre religioni sembravano essere simili sotto molti aspetti, fu proprio mio marito a convincermi che esse erano molto simili. Succede spesso così: chi è nell'errore cerca di convincere chi è nella verità, che il cristianesimo sia una delle tante religioni, per poi sentirsi a posto. Purtroppo il XXI secolo per molti credenti è iniziato con il disprezzare la fede cristiana. E chi lo vive formalmente disonora la verità. Per disprezzare la fede cristiana non è necessario parlarne male, è sufficiente non prendere posizione quando essa viene denigrata o quando Cristo viene paragonato a un grande uomo religioso e nulla di più. Guardavo una trasmissione nella quale uno scrittore, interrogato in merito a un suo testo su Gesù, rispose con la più grande naturalezza che quando disse di essere la verità, Gesù andava capito, perché secondo la sua opinione non poteva essere la verità in persona, ma era un uomo che ha agito a favore della verità. L'errore principale della donna protagonista della testimonianza non è tanto l'avere sposato un uomo di un'altra fede, ma il ritenere Gesù semplicemente un uomo che predicava una bella morale, come Maometto, e nulla di più. È molto difficile commettere un errore nella scelta del partner, quando si hanno come massima autorità le parole di Cristo, ma se si pensa alla Bibbia solo un libro di morale come lo è il Corano, è naturale che uno scelga la morale che più gli conviene. E quando si tratta di sentimenti, purtroppo, non siamo in grado di ragionare obiettivamente. Chi non ha conosciuto la seduzione dell'innamoramento? A volte si può provare una certa buona simpatia per chi sposa persone professanti una fede diversa. Ma, nel caso della sposa in questione, non ci sono proprio scuse. Sono nata in una famiglia cristiana, cresciuta frequentando la scuola domenicale, campi biblici e persino la scuola cristiana. I matrimoni misti sono talmente frequenti che ormai non ci facciamo più caso. Ma, molto probabilmente, questa sposa ignorava che a una donna musulmana è vietato per legge sposare un uomo di un'altra religione, mentre per un cristiano o cattolico ne conseguirà semplicemente una disapprovazione. Nell'ambito della fede islamica si può arrivare anche alla pena di morte. È vero che l'Islam, nel venire in contatto con altre culture, può diventare e diventa più permissivo. Ma sta di fatto che sono troppe le ragazze ad aver già pagato con la loro vita una scelta matrimoniale non approvata. Perciò se questa donna ogni mattina si risveglia accanto all'uomo che ha sposato, non può che battersi il petto, perché è stata istruita nella fede cristiana e cresciuta respirando il cristianesimo. E se si fosse almeno comportata come una musulmana, non avrebbe sposato un uomo di un'altra fede. Solo in questo senso, meno come ha detto il marito musulmano, il cristianesimo e la religione musulmana sono molto simili. Ma l'errore di questa sposa era ancora più grave perché, come ha testimoniato, ero una leader e addirittura un modello di leader nella mia chiesa. Incredibile! Essere una leader, cioè un esempio, e poi commettere uno dei più gravi errori. Ma sia ringraziato Dio, che nella fede cristiana come esempio da imitare si deve tenere solo Gesù Cristo e tutti coloro che ne seguono le orme. La sincera testimonianza di questa sposa è molto utile per tutti. Coloro che si ispirano a esseri umani, e ancora più, è importante per esaminarsi attentamente. Se ha potuto sbagliare così grossolanamente questa donna, chi sono io, chi siamo noi per essere sicuri di prendere sul serio le parole di Gesù? Oppure reagiamo come Pietro, il quale, quando Gesù preannunziò il momento nel quale tutti i discepoli lo avrebbero abbandonato, rispose che se anche gli altri lo avessero fatto, per quanto lo riguardava, sarebbe rimasto con il suo maestro. Perciò, non accontentiamoci di essere arrivati ad una buona posizione nella vita cristiana come essere conduttori o leader, non riposiamo sugli allori per aver fatto tante cose buone o servito in modo particolare nel regno di Dio, ma continuiamo a esaminarci per vedere se veramente viviamo per Cristo. Nella sua onesta e schietta testimonianza, questa sposa ha pure analizzato la motivazione dell'errore da lei commesso. Qual era il problema? In una sola parola, orgoglio. Sarebbe stato molto utile per i lettori della sua testimonianza se avesse specificato in che modo avesse agito per orgoglio, dato che con tale termine si può dire di tutto e niente. Quando è nato l'orgoglio? Quando lo ha manifestato? Molto probabilmente quando sentiva l'ordine di Gesù a vivere per lui, quando mostrava di pensare di saperne di più di Gesù, nel ritenere la sua logica più vera, quando ha messo i suoi sentimenti al di sopra della volontà di Dio. E tutto questo per orgoglio. In fondo questo è il vero problema del rapporto tra Dio e la sua creatura. Non è facile accettare la logica di Dio quando non combacia con la nostra. Che male ci è nello sposare un non credente? Perché non posso fare le mie vendette? Perché devo sempre perdonare? Perché devo fare del bene a chi mi fa del male? Si possono imparare tante nozioni cristiane, ma senza necessariamente esserne convinti. Cosa, questa, che ha detto anche la nostra protagonista. Sono sempre stata contraria ai matrimoni, con i non credenti, ma in alcune circostanze siamo capaci di fare di tutto. Quel siamo capaci di fare di tutto è molto forte. Chi crede di essere capace di compiere il male che ora detesta? Lo si può fare solo quando si tocca il fondo, come la nostra sposa. Per umiltà si può dire di essere malvagi. Tuttavia, occorre una rivelazione particolare dello Spirito Santo per esserne veramente convinti al punto da essere in grado di cambiare opinione e atteggiamento. Ma la fiammella della vera fede splende comunque nel buio più totale, infatti, quest'anima quotidianamente tormentata. Testimonia. Non voglio che mia figlia pronunci che Maometto è il profeta oppure neghi la divinità di Gesù. Continuo a pregare che mio marito venga alla conoscenza del Messia prima che questo avvenga. Questa sposa avrà un continuo dolore per tutta la sua esistenza, per la scelta sbagliata e nell'insegnare a sua figlia qualcosa che il marito non vuole. Ma, se anche ha commesso vari errori, la grazia di Dio e il suo amore sono ancora più grandi. Questo è certo. A noi che abbiamo letto questa bellissima confessione, non rimangono che le attuali e solenni parole di Paolo, che sono un comandamento di Dio. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Colossesi 3.17. Marzo 2011. Ellero.